Sì, è poco da fare. Vi sono momenti che non si ha proprio voglia di vivere una vita normale. Non si ha proprio voglia di fare nulla. Sembra che ogni cosa da fare abbia un peso insolito, più del comune. Si ha un forte desiderio di ritirarsi da tutto, di pensare solo a se stessi, di sprofondare una soffice poltrona e il mondo vada come vada. Questo sentimento in sé può anche non essere un male. Perché facciamo parte di una razza con inclinazioni distorte, per cui provare sentimenti negativi non è un peccato o una trasgressione alla legge di Dio. È sbagliato, tuttavia, se obbedisco a queste inclinazioni. E come essere omosessuali? Molti omosessuali nascono come tali, e quando la loro tendenza non è frutto di una perversione della sessualità, non è peccato essere tali. Diventa peccato. Quando io approvo, aderisco, pratico le mie inclinazioni sbagliate. Questo vale per ogni tentazione. Essere tentati non è un peccato, lo diventa quando cedo alla tentazione. Così, anche se ci sono giorni che il sentimento di pigrizia fa da padrone, il credente deve trovare il modo di vivere all'altezza della sua chiamata, cosa non certamente facile. Ancora una volta però la parola di Dio, che è sufficiente per chi teme e ama Dio, dà delle indicazioni per poter vivere ogni giorno in modo degno della chiamata, per cui possiamo vedere tre momenti della vita nei quali è possibile portare frutto ed essere attivi per il regno di Dio, cioè quando si è nella vecchiaia, quando si è nella prova e in ogni istante della giornata. Iniziamo con il prendere in esame il portare del frutto nella vecchiaia. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia e saranno prosperi e verdeggianti per proclamare che l'Eterno è giusto, egli è la mia rocca e non vi è alcuna ingiustizia in lui. SL 92.1215. Per un incredulo e il mondo, la vecchiaia è un periodo improduttivo. Per la società il vecchio è un peso morto, tant'è vero che in certe culture, quando c'è, è da scegliere tra la vita di un bambino e un vecchio, si sceglie quella del bambino. Il vecchio non ha futuro, ha vissuto ciò che doveva vivere ed ora deve lasciare il posto a quelli che hanno un lungo avvenire e che possono essere più utili alla società. La parola di Dio invece ha un grande rispetto per i vecchi e per le persone anziane, anche perché chi ha posto e pone fede nel Dio vero, in colui che è nella vecchiaia, porta ancora frutto, il che vuol dire che è produttivo. E fecondo, porta frutto perché è ben piantato nelle promesse di Dio, cioè nella sua vita ha realizzato un vero rapporto con Dio per mezzo di Cristo. La sua vita religiosa non è stata una forma, non si è limitato ad osservare regole morali per cultura, ma nella gioventù metteva in pratica, meno a costo di essere disprezzato, meno i comandamenti di Cristo, come espressione di gratitudine per aver accettato il perdono dei suoi peccati per grazia, cioè senza alcun merito da parte sua. Il giusto, cioè chi osserva i comandamenti di Cristo, rimane in piedi davanti alla prosperità, il che vuol dire che il progresso non lo rende pigro né distratto. Non è come il pino caribean che è alto forte che resiste alla siccità e al fuoco, mentre circondato da un prato se ha molta acqua, troppo concime, muore. Neppure la sofferenza e le prove della fede demoralizzano il giusto, né lo fermano nel correre verso il premio che attende con gioia. Questa è la vecchiaia di chi ha una reale relazione con Cristo. Nell'età senile il credente può fare sue le parole del salmista. Poiché tu sei la mia speranza, o Signore o Eterno, la mia fiducia fin dalla mia fanciullezza. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo di mia madre, sei tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre, a te andrà sempre la mia lode. La mia bocca è ripiena della tua lode, e proclama la tua gloria tutto il giorno. Non rigettarmi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando il mio vigore viene meno. Oh, Dio, tu mi hai ammaestrato fin dalla mia fanciullezza, e fino ad oggi io ho annunziato le tue meraviglie. E anche ora che sono diventato vecchio e canuto, oh Dio, non abbandonarmi fino a che abbia raccontato la tua potenza a questa generazione e i tuoi prodigi a tutti quelli che verranno. SL 71.56, 8-9, 17-18. Che bella preghiera! Che meravigliosi desideri! Che nobili ambizioni! Ecco il frutto della vecchiaia, continuare a desiderare e, di fatto, proclamare l'opera di Dio, consistente. Oggi nell'annunziare che il perdono di Dio è offerto a tutti i peccatori, che Gesù ha riconciliato l'uomo a Dio, e che un atto di fede operante lo può rendere giusto una volta per sempre, e degno di entrare nella beatitudine eterna. Vi è forse un frutto più importante ed eterno? Un tale vecchio non è forse degno, e forse di più, di vivere come quei giovani che hanno una vita insulsa e vuota? La risposta, l'unica risposta alla società che desidera nuove idee e benessere per gli anziani, rimane, e rimarrà la parola di Dio. Chi ha posto una vera fede in Cristo porta frutto anche nel momento della prova. Il profeta Geremia si esprime in questo modo. Così dice l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli sarà come un tamerisco nel deserto. Quando viene il bene non lo vedrà. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra salata senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà. Quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi, nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Geremia 17.58. Nulla di più facile per noi esseri umani che porre fiducia in un'altra persona, come se questa avesse il potere sul bene e sul male, sulla prosperità e sull'indigenza. Che gli uomini abbiano una certa capacità di aiutare o meno il prossimo è vero, ma dobbiamo sempre tenere presente che dietro ad ogni uomo, dietro ad ogni autorità, ci è sempre il Dio sovrano che ci dona ogni cosa. Chi non ha questa visione rimarrà prima o poi deluso, sentimento descritto nella Bibbia in termini di luoghi aridi del deserto o una terra salata senza abitanti. Altra cosa invece per chi pone una reale fiducia in Dio, anche quando tutto sembra andare storto, quando tutto sembra andargli contro, egli rimane come un albero che ha le sue radici sempre immerse nell'acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire, come dice sempre la Bibbia, che per ogni cosa ci è il suo tempo, ci è un tempo per ridere e per piangere. Perciò, quando arriva il momento di piangere, non vi è la disperazione, non vi è un totale sconforto, ma avendo le radici, cioè il suo nutrimento nelle promesse di Dio, egli porta frutto. Che frutto? Le sue foglie rimangono verdi, cioè non cambia aspetto, non soffre il caldo, cioè non soffre le conseguenze della sofferenza come chi non ha speranza. Non è in affanno, cioè rimane fiducioso nonostante tutto. Porta frutto, cioè la sua vita spirituale non ne soffre e continua a testimoniare e a vivere per il regno di Dio. Il credente maturo considera la sofferenza e le prove come sfide, per dimostrare a Dio la sua fede sincera e il suo amore pratico e vero. Il Salmo 1 è forse il più esplicito nell'indicare come portare sempre frutto. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Il primo dei Salmi, il libro di preghiera degli Ebrei, non inizia con il lodare Dio, e nemmeno lodando il credente che ha fede, ma mette in risalto chi porta frutto, cioè colui che è attivo positivamente nel regno di Dio. Che il credente debba portare frutto è uno degli scopi principali al quale dovrebbe tendere, sia giovane sia vecchio, sia istruito oppure no. Gesù lo ha detto chiaramente: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. 1 GV. 5.16. Ma come portare frutto? Dandosi da fare? Fare progetti? Senz'altro sono cose giuste. Ma per Dio il frutto, quello vero e duraturo, proviene come conseguenza di una profonda conoscenza della volontà di Dio come è rivelata nella Bibbia. E questa volontà è possibile conoscerla solo se si legge, si rilegge, si medita e si studia ciò che ha detto Cristo Gesù. È la parola di Cristo che suscita nei credenti i giusti desideri, la legittima volontà, le vere ambizioni e non la nostra corrotta volontà umana, perché altrimenti non sarebbero più frutti. Infatti, i frutti di un albero sono il semplice risultato del prodotto della linfa dell'albero e non la volontà del frutto di essere tale. Così, una testimonianza, una parola buona, un gesto caritatevole, un comportamento leale e altruista saranno il risultato non di un moralismo della società, ma la conseguenza di una vita dipendente dalla volontà di Cristo. In questo modo si porta sempre frutto, sia nella vecchiaia, sia nella sofferenza e in qualsiasi altra situazione giornaliera, perché è la vita di Cristo che si manifesta nel credente. Vale la pena allora essere cristiani? Certo. Fanny Crosby, Frances Jane Crosby, 1820-1915, che compose più di 8.000 inni cristiani, rimasta cieca da bambina per una infezione oculare, sulla sua cecità, disse: «Sembra che la benedetta provvidenza di Dio abbia voluto che io fossi cieca per tutta la vita. E ringrazio Dio per questo. Se domani mi venisse offerta una vista umana, la rifiuterei. Non sarei mai riuscita a scrivere inni alla gloria di Dio se fossi stata distratta dalle cose belle ed interessanti attorno a me. Se potessi scegliere, sceglierei comunque di rimanere cieca, perché quando morirò, il primo volto che avrò mai visto sarà il volto del mio benedetto Salvatore. Parole che mi toccano e che hanno la capacità di produrre del frutto nella mia vita. Cristo ha detto: il tuo frutto viene da me. Osea 14.8. A Gesù Cristo sia sempre ogni merito e gloria. Novembre 2009. Ellero.